Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Allora, subito la mail: unabusoalgiorno@radio24.it, alla quale scrivere. Il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore, o se preferite robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. In redazione alcuni giorni fa è giunta una splendida e accorata lettera, che io ho anche girato ai nostri ospiti che presto sentirete, di una coppia che vive nel Padovano, esattamente a Limena, un paesino in provincia appunto di Padova. Perché ci ha scritto questa coppia, che ringrazio? Sono Flavio Noè e Anna Maria Dal Ponte. Perché dicono, lamentano il fatto che sul loro territorio, in una zona naturalistica denominata Tavello, sta per compiersi un vero e proprio scempio contro la natura. Le foto che ci hanno mandato obiettivamente sono splendide, rappresentano un territorio davvero incontaminato e da sogno, sarei quasi a dire. Perché uno scempio contro la natura? Perché l'amministrazione provinciale di Padova ha deciso di far passare attraverso questa zona naturalistica denominata appunto Tavello un grande raccordo anulare, una tangenziale o a 4 o a 2 corsie a seconda della zona di attraversamento, che correrebbe, o corre o correrà, adesso lo sentiremo, lungo la A4, che è l'autostrada. Sono già partiti gli espropri e queste persone che ci hanno scritto hanno detto: non è possibile uno scempio del genere, aiutateci. Ora io non so se sia o meno uno scempio, perché nelle trasmissioni bisogna affrontarli i casi e poi i radioascoltatori si fanno il proprio giudizio. Per parlarne io ho chiamato Domenico Riolfatto, che è assessore alla viabilità della provincia di Padova. Buongiorno Riolfatto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E Andrea Nicolello, che è il referente per la mobilità e la viabilità di Legambiente Padova. Buongiorno Nicolello. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, da chi partiamo? Diciamo così, da chi ha preso la decisione, via, quindi l'amministrazione provinciale di Padova. Allora, Riolfatto non deve difendersi dalle mie accuse, ma quelle di alcuni cittadini della sua provincia. Suppongo che lei sappia che non saranno e non sono i soli. Perché avete preso questa decisione di deturpare l'ambiente, uno dei tanti meravigliosi luoghi di questa nostra meravigliosa Italia? Beh, c'è uno scempio che sta andando avanti da molto tempo nel nostro territorio provinciale, uno scempio molto fastidioso, che è quello che viene perpetrato ai danni di tutti i cittadini che devono, automobilisti che devono arrivare a Padova o che hanno la necessità di spostarsi nel territorio padovano, e che creano ingorghi, intasamenti del traffico, ore di colonna e inquinamento pazzesco sulla città, dovuto questo scempio alla mancanza di una infrastruttura come è il grande raccordo anulare, che consenta agli automobilisti di essere raccolti in una strada adeguata e a norma, al passo con i tempi, e spostarli senza farli entrare nei centri abitati, nelle città. Quindi partiamo da questa, che è una fotografia reale del territorio. Quindi lei dice bisogna essere realisti, l'Italia è questa. Padova è una provincia che, come spero non se l'abbiano male i veneziani, ma è la capitale economica del Veneto. Le persone, e milioni di persone ogni anno attraversano quella provincia, e bisogna prendere il male minore. Noi siamo un crocevia di strade, perché siamo sul corridoio 5 est-ovest che attraversa Padova, e sul corridoio adriatico nord-sud con l'autostrada 13 che arriva sempre su Padova, con poi l'area del nord della provincia di Padova, che è il cuore economico di tutto il Veneto e anche produttivo. Certo. Per cui è attraversato questo territorio in verticale dal fiume Brenta. Quindi lei dice a malincuore, questa è una decisione che abbiamo dovuto prendere, colata di cemento, purtroppo non se ne può fare a meno. Beh, ma non è una colata di cemento, perché poi è chiaro, un'infrastruttura è sempre infrastruttura, però il passaggio sul Tavello sarà studiato nei minimi dettagli per a 4 corsie rendere la struttura meno impattante sul territorio. Sarà in parte sopraelevata per non andare Beh, a quattro corsie comunque, insomma, in ogni caso, no, dico, una bretella a quattro corsie proprio, come dire, nascosta non può essere, no? No, no, assolutamente no, però ci sono delle opere che pur non essendo nascoste, se sono fatte bene in maniera adeguata, chiaramente non vanno a sottrarre valore al territorio, ma possono integrarsi bene e quindi alla fine anche le opere ben fatte possono anche migliorare il territorio. Io, allora, magari è un po' azzardata la cosa, però abbiamo una serie di ville veneziane lungo l'asse del Brenta, il terraglio del Brenta, che sono bellissime. Se qualcuno avesse avuto in mente di costruirle oggi, avremmo avuto verdi ambientalisti che ci si avrebbero sparato. Allora, io costruite un tempo e oggi sono una ricchezza per il territorio. Allora, io la interrompo qui perché sicuramente la posizione è chiara. Prima di passare la parola a Nicolello, dico che comunque nel frattempo sono nate centinaia di movimenti spontanei, possiamo chiamarli no grappa, va? Così, che non è no alla grappa, ma è no al grande raccordo anulare di Padova. Nicolello, sbaglio oppure così? No, no, dice esattamente. Ma sul fatto che il Tavello possa migliorare dalla presenza del tracciato del Gra è un'ipotesi molto surreale. Basta ricordare che nel 2005 la sovrintendenza ai beni architettonici per il paesaggio del Veneto orientale, con una sua nota, ha già dichiarato totalmente incompatibile il tracciato in quel punto. Ma io voglio riallacciarmi a quanto detto dall'assessore Riossato in apertura di questa chiacchierata. In realtà Padova ha già un anello di tangenziale. Padova è una città di 200.000 abitanti, che come area metropolitana fa 400.000 abitanti, ha già un suo tracciato di tangenziale, un anello completo che è stato completato negli ultimi anni senza avere incroci a raso, ma tutti sopraelevati, benissimo. Il problema della viabilità attualmente è un problema dove abbiamo 800.000 spostamenti giorno, di cui il 75% avvengono su auto. Il problema di Padova è che è una città che attira mobilità. Noi dobbiamo spostare una parte della mobilità che attualmente gira su auto privata e metterla su mezzi sostenibili dal punto di vista ecologico. Ecco, ricordiamoci che abbiamo degli impegni di Kyoto di riduzione di CO2, il traffico veicolare privato comporta una produzione di circa un terzo della CO2 prodotta. Allora, ecco Nicolello, io però la entrare in città, non girarci attorno. Ecco, io la interrompo un attimo per chiederle questo. Ma allora come mai soltanto un comune, il comune di Limena, si è detto contrario a questo tracciato? Che cos'è? Gli altri comuni sono più scemi oppure c'è un altro motivo, insomma? No, non è soltanto il comune di Limena. Il comune di Limena si è espresso in modo netto perché ha questo problema del sito ambientale da tutelare del Tavello, ma anche il comune di Vico d'Arda, il comune di Urbano. Facciamo un altro esempio: Urbano. Adesso è previsto nel Gra un nuovo casello autostradale denominato Padova Ovest. Benissimo, questo casello è stato previsto nel progetto da costruire dove c'è un'area agricola non di interesse come il Tavello, ma comunque dove c'è una fattoria didattica, una fattoria che esiste dal 1700, censita nel catasto napoleonico. Bene, anche lì è sorto un comitato e anche il comune di Rubano sta prendendo le distanze da questo progetto. Ecco, però come sempre, che la provincia di Padova si impegnasse sulla ferrovia, abbiamo... Ecco, non ho mai chiaro, ma è chiaro Nicolello, è chiarissimo. Come sempre ci sono, come dire, delle opinioni a confronto e spesso ci sono anche degli scontri intellettuali, civili e democratici, come sta avvenendo qui in questa puntata della mia trasmissione. Riolfato, vorrei dare un minuto a ciascuno, un minuto a lei e un minuto a Nicolello. Insomma, il problema, dice Nicolello di Legambiente, non è portare altre macchine, ma portarle fuori da Padova. Sì, ma quando si fa una nuova infrastruttura, chiaramente a qualcuno si va sempre a creare qualche danno, è inevitabile, però noi dobbiamo seguire l'interesse della stragrande maggioranza della collettività e dell'economia del territorio. Se poi c'è qualche prezzo da pagare sul territorio, questo va pagato, indennizzato anche in maniera adatta. Ecco. E l'inquinamento che oggi abbiamo massiccio su Padova è causato dalle auto in colonna. Se le auto passano veloci su una strada adeguata, senza che si fermino i semafori, eccetera, questo inquinamento si riduce di oltre la metà. La tangenziale che oggi c'è su Padova è una tangenziale interna alla città, per arrivare alla quale bisogna attraversare i centri abitati di tutti i comuni della cintura. Allora, io ho fatto... 500.000 abitanti non possono essere ostaggio dell'intraffico. Benissimo. Per rispettare magari lo rispettiamo il più possibile, però per non fare un passaggio, un attraversamento, un ponte sul Brenta. Bene, Riolfatto, la sua posizione è chiara, io ovviamente la ringrazio per il suo intervento, rimanga però in linea perché abbiamo iniziato con lei, concludiamo con Nicolello. I prossimi passi che le associazioni che si oppongono a questa bretella, che poi è un'enorme bretella, compiranno. Prego Nicolello. Guardi, rispetto a questa grande bretella intanto c'è da chiarire perché per 2 anni è stato detto dal presidente Casarin che era inserita nella legge obiettivo, cosa falsa, non c'è mai stata una delibera CIPE che l'ha inserita nella legge obiettivo, per cui si sono saltati alcuni procedimenti che coinvolgono le amministrazioni locali e che invece adesso bisognerà recuperare. Seconda causa, stupisce che ancora una volta una concessionaria, la società Padova Venezia, che è la titolare della società GRA, voglia rinnovare la propria concessione attraverso la costruzione di questa grande opera. Noi sfidiamo la provincia a investire i soldi, perché servono soldi da investire, sul ferro. Perché la provincia tiene fermo la circolare ferroviaria da Abano all'Interporto? Allora, non abbiamo il tempo. Insomma, ci sono decine di cose da fare per risolvere il problema della mobilità, non certo portare altro traffico attorno a Padova. Allora, non abbiamo il tempo di rispondere adesso a questi quesiti e a queste domande, ma siccome Padova è un patrimonio dell'umanità, perché è una città meravigliosa, come lo sono anche i padovani, dico ai miei radioascoltatori, torneremo su questo argomento, non domani, non tra una settimana, ma nei prossimi mesi, per vedere come è andata a finire questa storia. Grazie a Nicolello, grazie a Riolfatto, in studio a Laura Faginne, in regia a Giorgio Matè, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.